Abbiamo voluto dare avvio a questo primo momento di inchiesta sul territorio attraverso un camper. L'abbiamo chiamato Avvocamper perché nei momenti di presidio, che li chiamiamo così, ci sono avvocati e consulenti che sul territorio danno un'assistenza legale sul tema del caro bollette e degli sfratti, o per chi è già impossibilitato a pagare l'affitto o ha già avuto i primi distacchi di gas e luce. Per noi questo è un primo momento della campagna a cui abbiamo aderito, ci siamo fatti promotori qua sul territorio dell'Emilia Romagna, una campagna nazionale che noi non paghiamo, che ha sviluppi nazionali, ma che arriva dalla grande ondata di rifiuto e attivazione che c'è stato in Inghilterra in questi ultimi mesi con il Don't Pay UK. Questo per noi è stato un primo momento. Sabato siamo stati al Pilastro, che ha riscontrato una discreta partecipazione. Abbiamo avuto contatti con molte famiglie, per la maggior parte residenti all'interno di case popolari, molte delle quali hanno già subito dei distacchi del gas, altre a quali sono arrivate le prime bollette anche di 1200 euro, come abbiamo poi dopo riportato sul sito e sul gruppo Telegram Noi Non Paghiamo Emilia Romagna. E questo per noi è stato un passaggio sia di conoscenza che di inchiesta, ma anche di agitazione. Abbiamo già delle scadenze future, l'Avvocamper continuerà nelle prossime settimane nei quartieri popolari, già questo sabato saremo alla Barca, sabato successivo saremo in Mazzini e San Donato, per arrivare, speriamo collettivamente, una grossa partecipazione a una grande assemblea il prossimo 8 ottobre all'interno della Bolognina, della Corte 3, la Corte Popolare in cui stiamo svolgendo le nostre attività di sportello e inchiesta qua in Bolognina, dove siamo radicati, abbiamo uno spazio e dal quale vorremmo appunto che si apra un momento di discussione, di presa di coscienza collettiva, non solo nostra ma anche politica, e che ci porti poi dopo a iniziare a pretendere alcune cose che reputiamo importanti. Prima fra tutte la questione degli extra profitti che le multinazionali in questi ultimi mesi hanno portato a casa nelle proprie casse. Si parla di diverse decine di miliardi di euro fatte attraverso l'aumento dei prezzi del gas e quindi proprio anche della luce con cui si produce appunto la corrente elettrica, e dei quali pretendiamo che l'intera somma, i miliardi versati appunto dalle famiglie, vengano restituiti alla collettività per far fronte a questa emergenza, che non è ancora iniziato l'autunno, non è ancora iniziato l'inverno, e alla quale pensiamo che molte, tantissime famiglie, già da quello che vediamo, si troveranno in grosse difficoltà anche solamente nel poter pagare le bollette, però appunto avere anche semplicemente la possibilità di riscaldarsi all'interno delle proprie case o di far fronte ai costi ormai diventati smisurati per molte famiglie magari monoreddito con 2-3 figli a carico. I bonus messi in campo finora dal governo li ritenete insufficienti? Assolutamente, se in un primo momento, con cui avevamo già iniziato un periodo di inchiesta nel marzo di quest'anno, sono stati e avevano culminato in un pagamento da parte anche degli assistenti sociali del maggior numero di bollette che erano arrivate alle famiglie. Questo tipo di inchiesta l'avevamo svolta in Bolognina all'interno delle corti popolari, corte 3, corte 2, corte 8. Quel momento lì si era riusciti a far fronte appunto all'esigenza delle famiglie. Oggi questo è andato immediatamente a non essere più una misura sufficiente. Colmare quel divario tra la possibilità di pagare da queste famiglie con stipendi di 1.200 euro, anche 1.500 euro, oggi queste famiglie sono impossibilitate. Le bollette che abbiamo visto solamente sabato al Pilastro sono esorbitanti, parla di bollette anche da 1.200 euro e che quindi chiaramente mettono nella condizione una famiglia di dover scegliere se pagare una bolletta per alcune o pagare l'affitto o semplicemente vedersi staccato l'utenza. Quindi questo pensiamo che sia un problema grosso, emergenziale, al quale stiamo andando incontro, che si aggraverà nei prossimi mesi, in cui pensiamo ci sia bisogno di un'istanza popolare di massa per andare appunto a pretendere che nuovamente miliardi di euro che provengano prima di tutto da questi extra profitti fatti dalle multinazionali, ma che dopo ci sia anche immediatamente uno stanziamento per far fronte a questa emergenza. Vi immaginate forme di protesta come autoriduzioni di massa? Noi stiamo lavorando in una direzione chiara. L'8 ottobre sarà un'assemblea cittadina nel quale vorremmo costruire a livello regionale, non solamente locale, una forma di protesta. L'8 decideremo le forme che potremo mettere in campo. Già con i nostri avvocati stiamo verificando la fattibilità di cosa possiamo mettere in campo. perché è chiaro che oggi mettersi anche di fronte alla possibilità di non pagare per noi oggi è una proposta non solamente politica e di lotta, magari di divertenza, ma è la necessità per molte famiglie. Non poter pagare, questo è un dato, non è che molte di queste famiglie non ce lo dicono chiaramente i banchetti, non è che non vogliamo pagare, ma saremo costretti a non pagare. Quindi chiaramente anche l'autoriduzione è una formula che stiamo vagliando anche qui i nostri avvocati e poi dopo metteremo a discussione nell'assemblea dell'8 ottobre prossimo. Se volete presenziare appunto anche nei prossimi Avvocamper, sabato prossimo ci vedremo dalle 16 alle 18 alla Coppa della Barca, altrimenti vi invito tutti e tutte a partecipare l'8 ottobre prossimo in Corte 3 alle 16 a questa grande assemblea sul caro vita e contro gli aumenti delle bollette.